Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Immondezza vicino alle provette. Ho visto i cestelli per la disinfestazione con due dita di ruggine. Ho visto pavimenti di venti. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Nel reparto di dialisi, dietro i letti dei malati, la muffa perché derivava dalle mura che erano umide e che nel tempo avevano provocato appunto la muffa. Ho visto nel reparto di psichiatria qualcosa di che mi fa pensare alla Seconda Guerra Mondiale. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. Nella stessa sala mortuaria, perché io credo che poi bisogna soprattutto avere rispetto di chi purtroppo muore, nella sala mortuaria poi veramente siamo nell'indecenza assoluta, muri picconati, nessun rispetto per chi muore e per i familiari di chi perdono una persona cara.